Carissimi amici di Ludico Forum, bentornati a questo nuovo episodio, il secondo di questa quarta stagione. Iniziamo con un esperimento che abbiamo già fatto nella scorsa stagione, ossia quando venivo invitato da Pixel Deb nel suo canale, che ricordiamo Pixel Deb su YouTube. Andate, iscrivetevi, attivate la campanella, guardatevi i video, condivideteli e soprattutto mettete like a tutti quanti i video. Ogni volta che partecipavo, diciamo, a una sua live dove facevamo un certo tipo di rassegna, poi creavo ovviamente la versione in podcast. In questo caso abbiamo fatto la stessa cosa. Nello specifico si tratta dei 10 titoli migliori del 2023 secondo Deborah e secondo me. Però in questo caso, dato che il video, la live, insomma, è durata più di 3 ore, come abbiamo già fatto in una precedente occasione, divideremo ovviamente la storia in 2 episodi. Quindi questa è la prima parte, con i titoli dal numero 10 al numero 6, e poi inizieremo con una seconda parte la prossima settimana, fra qualche giorno, 4-5 giorni, con la seconda parte dove inizieremo ovviamente dal quinto fino al primo titolo. Quindi vi auguro un buon ascolto e ci vediamo al prossimo episodio. Runtime Radio presenta Ludico Forum. Buonasera a tutti ragazzi, eccoci di nuovo qui con una bella levozza. Allora, è seratona evento con un ospite grandissimo, la voce più bella della radio, ossia il mitico e grandissimo Simone Pizzi. Buonasera Simone. Ciao ciao, buonasera a tutti. Allora, fateci sapere ragazzi come ci sentite, perché questa sera Discord abbiamo avuto qualche problemino, quindi stiamo usando Skype. Io mi sento leggermente un rimbombo della mia voce, spero non dia problemi, insomma, questa cosa. Fateci sapere, insomma. Quindi intanto io saluto Carlo, buonasera, Astolfo, Maria e Mattia, buonasera cari. Quindi questa sera con il mitico Simone vedremo la top 10 dei giochi più belli che abbiamo giocato in questo 2023, che non significa che debbano essere usciti nel 2023, possono essere giochi usciti anche nel 1990, non c'è problema, ma l'importante è che sono 10 giochi che abbiamo giocato quest'anno, quindi cioè, anzi no, l'anno passato ormai, nel 2023, e sono quelli che ci hanno colpito di più in assoluto. E quindi c'è Simone qui con noi che ci dirà anche la sua top 10. Sì, intanto chiedo scusa subito, ovviamente, perché il problema del Discord è colpa mia, quindi qualsiasi disservizio è comunque sapete con chi prendervelo. Vabbè, non ti preoccupare, può capitare, non c'è problema. Ripeto, l'altra volta con il buon Inspi non riuscivo a condividere la schermata su Discord, quindi ogni volta dà delle problematiche differenti. Intanto continuo a salutare. Intanto ci sentono bene, quindi questa è una cosa molto positiva. Esatto. È arrivato anche Simone l'altro. Buonasera, buonasera Simone. Quindi intanto vai Simone, raccontaci un po' di Runtime Radio, del tuo progetto. Sì, noi come sempre, insomma, ogni volta che partecipo con Deborah, insomma, sempre gentile, mi permette comunque quantomeno di presentare il nostro progetto, la nostra web radio che risponde a runtimeradio.it. Basta andare lì, mettere play e ascoltate la web radio. Durante l'arco della giornata ci sono diverse trasmissioni che abbiamo fatto negli anni, e la sera, di solito, oppure la mattina presto, ci sono delle live con vari programmi. Insomma, questo è quello che facciamo, ma fondamentalmente in realtà noi siamo un network di podcast. Infatti se andate su Spreaker.com e scrivete Runtime Radio, lì trovate decine di podcast che abbiamo fatto noi adesso e nella nostra storia. Trovate il link in descrizione ragazzi se siete interessati, e soprattutto il lunedì sera per me è ormai un appuntamento imperdibile. Infatti ieri ho rosicato che non l'avete fatto. No, lunedì prossimo torniamo con la Mono. Serata Mono, che è molto divertente, che quindi praticamente scelgono un argomento, un genere musicale, un argomento, insomma, e quindi ogni volta, ogni lunedì c'è questo argomento o genere musicale differente, loro mettono alcune canzoni e poi si mandano i bonus. Tendenzialmente io partecipo sempre con 700 bonus. Grazie, no, ma è importante, se non ci fossero i bonus, in particolare di quelli di Deborah, diciamo che le trasmissioni durerebbero la metà, no? Quindi importante. Cioè, io ne mando un po' ogni volta. È importante il contributo. Posso solo dire una cosa prima di iniziare? Certo. La cosa è che un'iniziativa che vogliamo invece portare avanti è quella dell'Anti Sanremo 2024. Noi il 9 e il 10 febbraio, lo so che... L'Anti Sanremo. Lo so che siamo molto in anticipo col tempo, ma noi il 9 e il 10 febbraio faremo un festival musicale in Runtime Radio. Un festival musicale molto scarcitrato, cioè nel senso che vale da la canzone elaborata a io che canto sotto la doccia con il telefonino waterproof che registra. Quindi qualsiasi cosa voi possiate o vogliate produrre va bene, qualsiasi cosa, perché chiaramente il tenore è quello del gioco, dello scherzo, insomma non è una cosa seria, non si vince veramente niente. Però ecco, insomma, per tutte le persone che odiano Sanremo, che non vogliono stare lì appiccicati alle due serate finali, ci siamo noi. Anche se poi in verità su Runtime Radio io partecipo ormai da un paio d'anni anche al Fantasanremo. Al Fantasanremo, sì sì. Quindi l'anno scorso ho vinto. Infatti la radio è spaccata in due. Quindi. L'anno scorso ho vinto al Fantasanremo, è stato un bellissimo momento. comunque, allora andiamo. Su Steam, quindi vedrete anche questa sera Steam, la schermata. Ah, vedi, Simone dice prossimo genere musicale progressive rock, l'hanno già fatto in verità, però la musica straniera, quindi ci sarà il progressive rock, sì, italiano. Ci sono altre due puntate sul progressive, sì. Altre due. Io il mio bonus l'ho mandato in quella italiana. Esatto. Quindi, miei cari, siccome io e Simone abbiamo una bella chiacchiera, direi di iniziare. Se no si finisce all'una come al solito. Intanto il rischio è sempre quello, quindi. E più o meno. Poi abbiamo visto anche che c'è il festival del capitalismo e dell'economia, questa cosa fa abbastanza ridere. E niente, quindi inizia ovviamente l'ospite con la numero 10, al decimo posto. Sì. Allora, io nella mia lista ho messo, vedrete insomma che bene o male i generi sono tre fondamentalmente in tutta la lista. Purtroppo con l'età mi sono radicalizzato su certi generi e forse magari escludo altri. E in particolare il decimo posto, uno potrebbe dire perché al decimo posto quando non al primo, al secondo, al terzo. C'è un motivo. Allora, innanzitutto parliamo di Planet of Lana. Che sì, intanto lo metto. Esatto, che si tratta insomma di questi nuovi action adventure, platform adventure, non so bene neanche come definirli, quei giochi che prendono un po' dalle origini di Another World, anzi Another World senza la S plurale, e quindi è insomma un'avventura, scorrimento, platform dove ci sono enigmi ambientali, dove ovviamente il contesto e i personaggi comunque in qualche maniera ti raccontano una sorta di storia silenziosa, perché non parla mai nessuno, a parte qualche vocalizzo qua e là. E diciamo, questo è uno di quei giochi che si era presentato subito come iper commovente, strappacore e via dicendo, e quindi diciamo che le aspettative già erano molto alte. Secondo me funziona molto bene come gioco, perché è bella questa ambientazione e anche la rottura che c'è all'inizio, perché tu inizi in questo pianeta così bello, verde, rigoglioso, poi arriva questa invasione aliena di robot, non si capisce bene, che cattura tutti, ammazza tutti, distrugge tutti, e la nostra amica Lana rimane scompagnata, diciamo, da un personaggio con il quale correva, rideva e scherzava tutto il tempo, tipo Heidi, e quindi da lì in poi inizia. Tipo Heidi. Sì, tipo Heidi. A una certa c'è una altalena legata non si sa dove, anche qui. Guarda, qui di altalene ce ne sono tante, forse ce ne sono anche troppe, diciamo. Anche troppe altalene. Allora, perché l'ho messo al decimo posto, nonostante che il gioco è bello, devo dire che il gioco è bello, e se si sono lette troppe recensioni, si sa un po' il fatto appunto dell'emotività nascosta all'interno di questo gioco, secondo me poi alla fine si parte un po' preparati da questo punto di vista, e quindi si rischia un po' di rimanere delusi. È come quelli che hanno giocato Final Fantasy VII dopo anni e sapevano che Iris moriva, insomma, cioè, spoilerone. Spoiler, se qualcuno non lo sapeva. Vabbè, cioè, io sono passati 30 anni, se non lo sai è colpa tua, insomma, no? Comunque, comunque, vabbè, qui non faccio spoiler chiaramente, però questo bellissimo viaggio appunto di Lana, che inizia questo cammino verso dritta davanti a sé per cercare di trovare un modo di ritornare in compagnia di Milo, non so bene perché lo nomina, poi non si sa se è tipo una sorella, se è un fidanzato, non si capisce bene. Però durante l'azione di questo gioco, la cosa che un po' mi ha disturbato rispetto a questo tipo di giochi che a me piacciono tantissimo è che su alcuni enigmi ambientali, su alcune situazioni, anzi forse anche troppe, bisogna stare in un punto veramente per tantissimo tempo, non solo per capire il meccanismo dell'enigma ambientale, carruo, le cose, salta sopra, giù, destra, sinistra, ma perché comunque a volte gli enigmi sono talmente arzigogolati che insomma il rischio di romperti le palle è grosso, ecco. È veramente grosso. Poi però ci sono questi momenti belli, molto più dinamici, di inseguimento, di corsa, di anche di inquadrature a largo campo molto ariose con le musiche romantiche. Ah, perché quello che mi sono scordato di dire è che Lana poi incontra anche un gatto, cioè un animalino alieno che potrebbe essere un coniglio gatto, insomma, diciamo, con il quale poi interagisce e con il quale ovviamente risolve gli enigmi. Allora, il gioco è bello, secondo me va giocato. È bello artisticamente, veramente bello artisticamente. La parte audio, secondo me, forse è una delle cose più belle in generale tra i giochi che ho giocato quest'anno. Però, appunto, secondo me c'ha questi momenti troppo, troppo cervellotici che spezzano proprio il ritmo, cioè spezzano proprio l'entusiasmo, diciamo, di andare avanti. Al contrario di un altro gioco che sarà molto più in là, cioè molto più in alto nella classifica, che però secondo me non ha questi difetti, insomma. Capito, intanto vedo un attimo, dice la Capretta, fa ciao, ovviamente dice Simone. Sempre, Capretta, sempre. E Mattia dice, Conan si appendeva ai bordi delle astronave aliene con l'alluce del piede. Sì, c'aveva una forza nei piedi quel ragazzino impressionante, soprattutto nell'alluce, effettivamente. Comunque è molto Studio Ghibli sto gioco, eh? Cioè, devo dire la verità. Cioè, nel senso, lo stile visivo ricorda molto in qualche maniera quel tipo di magia, ecco, insomma. Ma è molto colorato, molto natura, molto, diciamo, quello ricorda molto, secondo me, Miyazaki. Poi dice Vincent, ciao, buonasera Vincent, ma come Iris muore? Vabbè, se non lo sa lui che l'avrà giocato in 64 volte. Carlo dice, tra l'altro all'epoca aveva pianto quando Iris è morta. E Mattia dice, Inside non si batte? Non so se hai giocato Inside. Sì, no, ma io ho detto, mi piace proprio il genere. No, secondo me Inside si batte, ok, però chiaramente, secondo me, dopo Limbo, Inside, diciamo, è quello che ha creato questo nuovo filone, no? A parte, appunto, come dicevo, generati, diciamo, dalla filosofia di Another World, sua amica, però poi ovviamente sono evoluti. Secondo me Inside è bello, forse è troppo breve, anche questo non dura tantissimo, devo dire, perché secondo me giochi così, se durano troppo ti frantumi le capisci? Però no, non batte Inside, non lo so, non te lo so dire, non sono in grado di darti questa valutazione, perché lì dipende poi da quanto entri tu un po' nello spirito del gioco e quanto ti emoziona poi il gioco stesso. Entrambi sono due giochi emozionanti, uno è molto più dark, più scuro, questo è molto più areoso, vorrebbe dare proprio questa immagine di che bello il cielo azzurro e il prato verde, insomma. Heidi, insomma. Tornando ad Heidi e le caprette di prima, anche se qui ci sono questi gattini che più o meno che fanno ciao, insomma. Sì. È arrivato anche Francesco, buonasera, dice, anche io pianto quando è morta Iris, ma perché non è morta prima? è giusto, ci sta. Mattia dice, Inside lo adoro perché sembra un film muto degli anni 20 e poi la fisica è incredibile. E Simone chiede, ma pure in questo gioco la bambina muore, dato che tu ogni cosa, allora, la sì, bambina la, muore. La bambina, ricordatevi sempre che la bambina muore sempre. Anche quando non c'è. Esatto, muore sempre. C'è sempre una bambina da qualche parte che muore in un videogioco. Alla fine. Esatto, alla fine, sempre, sì. Poco prima del titolo di coda, però. Comunque, dico la mia di questo gioco. Io ho provato la demo quando era uscita, perché insomma se ne è parlato tanto, è uscito anche su Game Pass poi, e mi piaceva molto, come dicevi tu, insomma, questo stile molto colorato, questi paesaggi molto naturalistici, obiettivamente, artisticamente parlando, colpisce tanto. è carina anche questo gattino che è una palla, praticamente una palla con la codina, sì, il gatto palla, sì, anche in gatto palla. E, però c'è il problema che a volte, insomma, vi ho già detto che a me questi giochi un po' tendenti al puzzle, perché alla fine sono questo personaggio e questo gattino, no, che per andare avanti devono aiutarsi a vicenda, quindi prima muovi uno, poi muovi l'altro per superare determinati ostacoli, che a me dopo un po' allappa, come dicevi te, nel senso, siccome più o meno puoi fare sempre la stessa cosa, almeno da quello che ho visto dalla demo, quando un gioco è più o meno sempre con lo stesso tipo di puzzle, a una certa mi annoia veramente tanto. Quindi ho fatto bene, secondo me, a provare la demo, perché se fosse stato un po' più vario, quindi sì, il momento in cui si aiutano, muovi un personaggio poi muovi l'altro, mi sta bene, però che mi pare, insomma, dalla demo che fosse un po' tutto così, oppure che ne so, magari nascondi, ti fa vedere, poi salta, cioè, nel senso, mi sembrava una cosa, uno, già vista appunto in altri esempi, come hai detto te prima, con Inside, con Limbo e tutto quanto, e, però mi dava l'impressione che se avessi giocato questo gioco dopo un po' mi sarei veramente rotta le palle, perché mi dà quest'idea che alla fine come tipo di gameplay è sempre la stessa cosa. Quindi secondo me lo salva la bellissima ambientazione, la bellissima grafica, i colori. Sì, cioè, sì, purtroppo sì, quello che dici è vero, cioè, nel senso, ho faticato io, devo dire la verità, perché per tante ragioni, comunque questo fatto che tu dici, questi enigmi ambientali che diventano sempre più articolati, sempre più lunghi, e alla fine sì, insomma, io voglio andare, io voglio vedere che succede. Sì, è una certa, vabbè, ho capito, basta. C'ho questo piccolo difetto. Ho capito che mi doveva far aiutare dal gattino, però insomma andiamo avanti. Che, ripeto, è un problema che spesso io trovo nei sorte di puzzle game, diciamo, quindi quando è sempre la stessa cosa da fare all'infinito, sì, magari aumenta il livello di difficoltà, però per i miei gusti dopo un po' m'allappa. Poi c'era anche questa cosa che dice al gatto: stai fermo, vieni qui, arrivieni, stai fermo, poi magari cammini, oh cacchio, non gli ho detto che doveva seguirmi, torni indietro, vieni. Cioè dopo un po' m'allappa pure questa cosa, non, diciamo, non fa per me come tipo di gameplay. Sì, poi perché è poco vario, devo dire la verità. In questo caso non hanno fatto quell'esercizio in più di fantasia per costruire cose più varie, ecco, diciamo, ma alla fine il gioco è sempre questo, cioè tutto così. Sì, che è il motivo, insomma, per cui poi magari ho evitato di giocarlo, perché obiettivamente bello è bello, però penso che mi sarei veramente tanto tanto annoiata. Però è andato molto bene, infatti anche qui su Steam ho avuto delle recensioni molto positive, quindi comunque è una cosa che mi fa piacere. Bene. Stolfo dice: alla fine di Inside ci sono rimasto malissimo. Io Inside ancora non l'ho giocato. Ho giocato Limbo, ma Inside ancora no. Ce l'ho tipo un po' ovunque, però ancora non l'ho mai giocato. E siccome quello so che è breve, magari prima o poi lo recupero. Sì, sì, beh, diciamo che secondo me è più dinamico di questo. Alla fine è anche più breve, devo dire. È più breve, sì, sì Inside breve di questa, immagine. Comunque è arrivato anche Nico, buonasera, buonasera Nico, guarda, questo è il primo, il decimo posto di Simone, Planet of Lana. E non ci fai manco le scureggie come in Oddworld, dice Francesco, dice quindi manco la gioia della scureggia. Vincent dice: carino Planet of Lana, ma la lunga stucca, vedi, è quello che dico io, nel senso, secondo me, cioè alla fine rifare la cosa, magari sì, con difficoltà più elevata, però sempre la stessa all'infinito, per come sono fatta io mi allappa tanto. Sì, no, ma è giusto, è giusto. Guarda, in questo gioco in particolare l'ho sofferto, perché poi vediamo in un altro esempio, anzi in altri due esempi che faccio dopo, secondo me non c'è questo problema, per esempio. Quindi è stato gestito meglio magari, confronto a questo qua. E infatti dice: Limbo ed Inside sono più efficaci, dice Vincent. E Nico dice che anche nella sua top 10 Planet of Lana, vedi, vedi. Allora, passiamo al mio decimo posto, che è leggermente più sputtanato, anche se questo ha avuto comunque, cioè, nel senso, ne hanno parlato veramente tanto, e come tipo di gioco particolare che se ne parli così tanto, onestamente. Quindi, ripeto, questa cosa mi ha fatto comunque piacere. Il mio è abbastanza più sputtanato, diciamo, lo conoscono tutti. Ossia Resident Evil Village. Beh, figo, dai. Allora, mi è piaciuto, l'ho giocato in compagnia sulla PlayStation 5. Ho giocato insieme a Gabriel, mia sorella e mio cognato, e spesso noi giochiamo noi quattro, e ovviamente però gioca Gabriel, cioè nel senso noi facciamo tipo gli spettatori più o meno attivi passivi, perché attivi perché magari diciamo no vai lì, fai quello, fai quell'altro, cioè tipo gli rompiamo le palle. Poi passivi invece quando magari che ne so c'è sta un pezzo palloso, allora lì ci spegniamo un po' tutti, sì Gabriel fallo te e basta. Quindi diciamo lo sfruttiamo a Gabri, anche perché tra noi quattro è il più bravo a giocare, e quindi sfruttiamo il fatto che lui è più capace. Ad esempio se giocavo io a questo Resident Evil, mio cognato, mia sorella proprio no, e penso stavamo ancora all'inizio, ancora dalla Dimitrescu, e quindi invece con Gabri, che praticamente lui non muore mai, non so come cacchio fa, cioè i giochi poi li finiamo pure in fretta. Scusate, siccome noi quattro non è che possiamo vederci molto spesso, perché Gabriel lavorando sabato e domenica diventa complicato vedersi con loro, che invece riposano sabato e domenica, allora quando ci riusciamo a vedere cerchiamo di giocare insomma un bel po' di ore, e fortunatamente Gabriel, essendo uno che non muore mai, alla fine riusciamo a giocare a questi giochi anche abbastanza rapidamente, insomma. E c'è da dire che questo Resident Evil Village mi è piaciuto, mi sono divertita a seguirlo, secondo me parte molto bene, che poi è praticamente il seguito di Resident Evil 7, avevamo giocato anche quello lì, e poi da Resident Evil 7 cambia proprio il tipo di giocabilità, no? Perché diventa in prima persona, perché diventa un po' più tendente quasi all'horror, no? Cioè nel senso tipo a volte degli infarti ti spuntano questi davanti, anche nel 7 dentro la casa insomma ti spuntava gente da un momento all'altro davanti, quindi è cambiata un po' la giocabilità con fronte ai Resident Evil classici. E hanno molta atmosfera comunque questi ultimi Resident Evil, e c'è da dire che mi sono piaciuti, mi sono divertita, e c'è da dire che io pensavo, ero convinta che la Lady Dimitrescu, dato che si è parlato unicamente più o meno di lei con questo Resident Evil Village, fosse il boss finale. Quando invece ho visto che alla fine è il primo dei boss, ho detto oddio, cioè non mi aspettavo già di combattere con lei, invece poi il gioco continua, ci sono altri boss, quindi avevo proprio capito male, insomma avevo capito che lei fosse la cattivona proprio per eccellenza, invece è una pedina diciamo, la Dimitrescu, che comunque alla fine è il personaggio più interessante, quindi capisco perché abbia avuto molto successo il suo personaggio, e infatti la parte che ho preferito è proprio nel castello della Dimitrescu. Però nell'insieme comunque l'ho trovato bello, anche se il protagonista già non mi faceva impazzire, insomma già il Resident Evil 7 il protagonista e la sua vita, insomma la compagna eccetera, già non mi avevano fatto impazzire loro, e il fatto che qui fosse lui il protagonista io non è che lo sapevo, infatti quando ho sentito ha iniziato a parlare dico no ma che è lui davvero, pensavo che era cambiata la cosa, o che magari tornavano i personaggi classici, anche se un po' si intravede uno, però pensavo che tornava insomma uno dei protagonisti classici di Resident Evil, invece no. Però bello, mi sono divertita, è stato interessante, ripeto, con Gabriel poi diventa tutto semplice, insomma tutti i boss fatti senza problemi, non c'è manco gusto quasi, con la mano sola infatti. Sì, cioè non c'è veramente gusto, guarda. Allucinante, non muore mai. Infatti noi tutti, ma come cazzo fai? Cioè proprio così, capito? Comunque aspetta, leggo qualche commento. 20 minuti è solo al primo gioco. Sì, io e Simone ci abbiamo poca chiacchiera come sempre. Mi sa che diventerà Pixel Deb by Night. Sì, di solito finiamo verso l'una quando ospito Simone. aspetta, poi messo un attimo a perdere quei commenti. Mi è piaciuto molto, nonostante pensavo mi sarebbe piaciuto poco, per il troppo combattimento, dice Mattia. Si combatte molto, sì. Con fronte ai primi Resident Evil qua sei sempre a combattere obiettivamente, e però non stanca, si sente doppia voce Deb, lo so c'è un pochino di audio mio che si sente doppio, non lo so perché col fatto che come vi dicevo all'inizio Discord Simone ha avuto problemi con il microfono, siamo su Skype e quindi c'è un pochino di rimbombo mio, infatti anche io mi sento leggermente. Gab l'immortale, veramente. Resident Evil 7 mi è piaciuto molto, soprattutto in finale. Villaggio ancora da giocare. Eh sì, guarda, te lo consiglio. Alla fine è il seguito della storia del protagonista di Resident Evil 7. E ripeto, Lady Dimitrescu, secondo me, è grande personaggio. Cioè, mi è rimasta proprio nel cuore. C'è un effetto eco, lo so, raga. Non so come fare, onestamente. Io penso che Village sia molto meglio strutturato, nonostante il 7 va la prima parte molto bella ed intima. Guarda, ti posso dire che a me forse è piaciuto più il 7 ancora, perché quella cosa, che il fatto che era ambientato dentro la casa, questa famiglia pazza, questo è un po' più open world, diciamo, quindi un po' più dispersivo a mio avviso, mentre lì col fatto che stavi dentro sta casa era un po' più inquietante ancora, quindi forse ho preferito il 7 in confronto al Village, però anche questo comunque è stato un titolo molto interessante. No, vi cago in chat, però stavamo spiegando. Inski, buonasera. E ok, Simone, vai. Io ho detto quello che dovevo dire su Resident Evil Village, non so se volevi dire qualcosa. No, io i Resident Evil li considero come i sentieri del mondo horror del videogame. Cioè, non ci ho mai capito niente. Una marea di capitoli. Ogni tanto provo, tramite YouTube per curiosità, a seguire un po' la lore di quella che è tutta la narrazione, insomma, diciamo così. Io giocavo solo il primo, devo dire la verità, cioè su PlayStation, e sì, paura, insomma, tutto quello che vi pare, però diciamo che non è mai stato un... Ma io, sapete che queste saghe giapponesi non è che sono proprio alla mia, insomma, nella mia sensibilità, però poi ogni tanto sono curioso, cerco di ricostruirmi un po' la storia e mi perdo inevitabilmente, perché personaggi sotto personaggi, quello che tradisce quell'altro, quello che in su giù a destra a sinistra, quello è il nipote del figlio del fratello e vabbè, insomma, così. Però indubbiamente The Village è tipo sentieri praticamente, o Dallas, io queste cose così. No, però devo dire che The Village, rispetto comunque al canone, diciamo, ha spezzato un pochino, no? Sia questo che quell'altro che vanno dentro la casa lì del tizio. Sì, il set. Esatto, che hanno spezzato praticamente un po' questo schema dell'avventura in terza persona, portandolo, insomma, a una versione più action in prima persona, che devo dire che è in effetti più figo e anche più scagareccio, insomma, diciamo. E più scagareccio è bellissimo. Eh sì, perché ti spaventi di più, dai. Sì, secondo me dal 7 in poi sono diventati un po' più creepy, insomma, un po' più inquietanti. Allora, Carlo dice: io spero in un remake del Code Veronica. E Nico dice: Capcom ormai farà remake di tutti i giochi. È probabile, sì. Sa spingere quei remake. Insomma, io devo giocare ancora al terzo di Resident Evil Remake, anche perché li sto recuperando adesso i primi, con questi remake. Io non l'avevo mai giocato i primi, e c'è da dire che comunque mi stanno piacendo un sacco. Quindi bene che stanno facendo i remake, così li recupero. Quindi passiamo al nono titolo di Simone. Sì, qui c'è da dire poco, devo dire la verità. L'ho messo proprio perché faccio una premessa che non ho fatto all'inizio. Diciamo che io 10 titoli, li ho messi 10 titoli, però non dico che ho fatto proprio fatica, ma insomma alla fine io ho giocato 20 giochi stanno, cioè non ho giocato tantissimo e mi sono molto focalizzato su determinate esperienze. E quindi alla fine, cioè nel senso, ho messo Star Trek Resurgence, non so bene come si dice, e, che però fa parte un po' di questo nuovo filone che nasce dagli ex Telltale, ex Dontnode, ex quell'altri. Insomma, io quello che sto notando è che questi giochi narrativi, queste avventure narrative barra cinematografiche barra televisive, diciamo così, alla Telltale, sono arrivati a una nuova generazione, cioè hanno tutti abbandonato i propri engine di sviluppo e utilizzano tutti quanti Unreal Engine, e se andiamo a vedere nella sostanza tecnicamente si assomigliano un po' a tutti, cioè è come se in realtà fossero diverse software house, però in realtà tutti collaborano con tutti, insomma, cioè questa strana sensazione, perché poi i giochi sono veramente molto speculari, nel senso nel tipo, nella tipologia di gioco. In questo caso parliamo di un gioco di Star Trek che a me è piaciuto, ma perché sono un fan, perché secondo me se non sei un fan non so quanto sia venuto bene sto gioco, perché la narrazione è molto lineare, sì, ci sono anche momenti, insomma, che diventa un po' più avvincente, però ricorda in tutto e per tutto, e questo è il suo positivo, il suo negativo, una puntata di Star Trek The Next Generation che io e Deborah consideriamo, secondo me, probabilmente la più bella delle serie di Star Trek. Assolutamente. Comunque quel periodo lì, no? quella fase lì, anche dal punto di vista narrativo, ricorda molto la serie degli anni 80-90, 80-87, insomma. E perché il ritmo è quello, i personaggi sono, diciamo, sono anche ben fatti, sono costruiti, il look, lo stile, gli uniformi, e il tipo di fotografia ricorda proprio la serie televisiva, insomma, di The Next Generation. Ovviamente parte da subito dopo The Next Generation, racconta una storia originale che però prende spunto da uno degli episodi della prima stagione di The Next Generation, quando loro incontrano, diciamo, questa trappola costruita da una civiltà di 20-30 mila anni prima, che adesso non mi ricordo neanche come si chiamano. Comunque, vabbè, l'episodio è abbastanza, se vedete il gioco poi vi ricordate un po' quello, se conoscete la serie. E c'è Spock a un certo punto. Così, c'è Spock vecchio, direi. Spock con una certa. E vabbè, ci sta, perché in realtà quando c'è pure il bonazzo del numero uno, ecco, esatto, sì, sì. Che poi sta cosa l'hanno l'hanno spoilerata all'inizio, doveva sembrare una cosa, un mistero, ci saranno dei personaggi della serie, e vabbè, immaginavo che alla fine numero uno, dovete considerare che Jonathan Frakes oramai sta dappertutto, cioè nel senso è lui a Star Trek oggi. Vabbè, ma è anche giusto, cioè guarda qua che è, pure così è buono. il bisteccone nostro. Bisteccone. No. Scusa, è Moro con gli occhi azzurri, che vuoi di più? Che vuoi di più, anche se qui lo fanno mezzo castanino, insomma, però vabbè, comunque, mo, al di là di questo, diciamo che, ecco, cioè, sì, c'è Spock nell'età in cui alla fine viene incontrato anche da Jean-Luc Picard nella serie di The Next Generation, che è già uno Spock, diciamo, in là con gli anni. E lui ovviamente come ambasciatore, come diplomatico, dà una missione, e poi loro si trovano in mezzo, insomma, a un problema che nasce da quella missione che loro fanno, e in realtà poi alla fine dietro, insomma, c'è dell'altro, come succede spesso nelle serie di Star Trek. Allora, carino, mi è piaciuta l'ambientazione, cioè, nel senso, se sei un fan ti piace, però devo dire che l'avventura di per sé merita di essere giocata se sei un fan, se no, cioè, nel senso che non eccelle, ecco, non eccelle, finisce in fondo alla classifica insieme a Planet of Lana per un motivo diverso, quello era troppo palloso, questo ripetitivo, esatto, è ripetitivo, e questo invece secondo me è una cosa che non eccelle, è un peccato, perché io ho sempre sognato, quando c'era Telltale viva, quella vecchia, dicevo, ma perché non fanno un gioco su Star Trek, no? Questi tipi di giochi narrativi. Mi hanno accontentato, ma mi hanno accontentato a metà, insomma. Diciamo un ni. Ni, sì, ni. Ma senti, ma Picard ha una certa spunta? No, niente Picard. Vabbè, allora niente. No, niente Picard. Vabbè, li perdono perché hanno messo numero uno. Sì, c'è il buon Will. Il buon Will, vabbè, adesso in poi è così. Allora, Mattia dice 20 giochi sono parecchi, vedi, no? Tu hai detto ne ha giocati 20, sono pochi, invece per lui sono parecchi. Nico dice io sono arrivato a 29 nel 2023 di giochi giocati. Mattia chiede se è ancora esclusiva Epic, al momento sì, però vedi qua uscirà adesso, poi nel 2024 uscire, sì. Arriverà anche su Steam. Sì, infatti io l'ho preso quasi subito su Epic, perché in realtà c'avevo la scimmia, perché sennò potevo tranquillamente aspettare, però gioco narrativo barra più Star Trek, però vedi, poi la scimmia a volte dice, a volte se poi te ne penti sì, esatto, anche perché poi è tipo un 29 euro, non so quanto, manco mi ricordo, però insomma. Dice manco, insomma, è stato regalato, no. Dice Ninspi, dice Deb anche stasera in fase arrapao, lo so, ma quando c'è il numero uno, regà, che devo fare? L'altra volta stavamo a parlare di MacGyver, stavolta stavamo a parlare del numero uno, la colpa non è mia. Immagina MacGyver e il numero uno nella stessa stanza. Mamma mia, che può essere. Chiudetemi lì con loro a vita, però. Esatto. Simone dice Deb controllati, niente, mi stanno bacchettando. Niente italiano? No. Niente italiano, niente. Ovviamente. No, però non, oggettivamente non è... L'inglese recitato è pulito come nella serie classica, insomma, quindi è abbastanza comprensibile e i sottotitoli ti aiutano, insomma, comunque, in qualche maniera, in inglese sempre. Allora, c'è da dire che questo titolo io pure lo voglio giocare perché, appunto, essendo fan di tutti i giochi alla Telltale, già ok, già mi piace, e in più adoro, come hai detto te, insomma, Star Trek, e quindi questa combo assolutamente mi interessa, però dovrò aspettare, sai, l'offertona, quella proprio imperdibile, sì, per prenderlo. Condivido, giocatelo perché merita di essere giocato, ma con l'offertona, sì. Sì, aspetterò, insomma, quando farò tipo, oh, no, lo devo prendere per forza, sta tipo, che ne so, esatto, a 8 euro, capito, mio. No, poi ci sono comunque personaggi interessanti, anche parti, tra virgolette, action, che non sono action ovviamente, però che comunque danno dinamicità alla storia, cioè, non è male, però non mi è venuto il brividino, ecco, diciamo così, insomma. Il brividino. Senti, ma sono sempre 5 capitoli, sai, come tutti del Telltale? Allora, è un gioco unico, cioè nel senso è tipo un film unico praticamente, solo che è diviso a micro capitoli. Ok, quindi, cioè, nel senso, ogni scena viene considerata un capitolo. Ah, madonna. Quindi sì, sono 700 capitoli. Sono 700 capitoli, sì. Scelta bislacca, direi. Scelta bislacca, però, secondo me, è anche per i salvataggi. E poi perché comunque le scene sono molto sezionate, no? Anche per compartimentare il gioco, no? Cioè, nel senso che non fa... Cioè, non poteva essere una cosa unica. Non c'è il salvataggio, no? Quindi, alla fine, comunque, in qualche maniera... È come quando tu, che ne so, in The Walking Dead passavi alla scena successiva e lui salvava. Ecco, è la stessa cosa, soltanto che qui lui lo considera, dà un nome al capitolo, insomma, diciamo così. Okay. Senti, ma le scelte che uno fa, ovviamente ti sembra che incidono oppure sono un po' fuffa? Bisognerebbe rigiocarlo per capire fino a che punto, però sì, comunque le scelte sembra, insomma, che fanno, ci stanno e hanno, sì sì, hanno comunque dovrebbero avere il loro effetto, cioè comunque la sensazione ti dà che poi uno se lo rigioca, poi magari quando lo giocherai tu ci confrontiamo, insomma. Esatto, ti dirò il mio finale, magari abbiamo un finale differente. Sì, non so, sai che bella domanda mi hai fatto, avrei potuto documentarmi sulla cosa, ma anche no, chi se ne frega. Quando ci giocherò ti dirò. La bambina muore, ricordatelo sempre. Sempre, anche solo qua. Cioè, se nel tuo finale la bambina non muore, qualcosa hai sbagliato, insomma. C'è qualche bug, esatto, comunque Inspi dice, lo vuoi giocare per numero uno e basta, niente, ormai mi hanno preso per rapa ora. Va bene, allora passiamo al mio nono titolo, che è sempre giocato col quartetto di prima, ossia io, Gab, mia sorella e mio cognato, sempre gioca Gab ovviamente, però in questo prendiamo le decisioni tutti insieme, soprattutto quelle molto rapide, un po' al volo, e quindi quando Gab sbaglia ovviamente uno ci si incazza pure, perché dice, no, ti avevamo detto di cliccare quello, perché hai cliccato quell'altro? Quindi oltre che la responsabilità di non far morire i personaggi male è sua, e anche quick time event e tutto quanto, se poi clicca sbagliato perché lo stiamo a rincoglionire, poi inizia proprio, capito, no, stasera tu non c'eni, sai, queste cose qua, insomma, magari mio cognato fa la pizza, fa pure buona, Gabriele sbaglia un quick time event o una scelta e niente, prete niente pizza, capito. E quindi il mio nono titolo è The Quarry, altro tipo di gioco che a me piace da morire, ossia questi qui dove le, insomma, sono dei film interattivi, ne abbiamo parlato tante volte di questi tipi di giochi, io aspetto sempre che ne escano altri perché mi diverto tanto a giocarli con questo quartetto che vi dicevo prima. E ovviamente qualcuno ci muore male per forza, cioè è veramente impossibile non far morire qualche personaggio. Qui a The Quarry ne abbiamo persi un po' ne abbiamo persi, sono tanti personaggi, c'è da dire, e ne abbiamo persi uno, due, ma almeno tre ne abbiamo persi, credo. O tre o quattro forse addirittura. Diciamo, non è andata benissimo. Però diciamo è molto divertente, appunto perché qui obiettivamente basta fare una scelta sbagliata per far morire male un personaggio. Tante volte uno rosica perché non è che è molto chiaro capire cioè che in quel momento quella scelta potrà essere fatale, quindi a volte anche un po' a culo la situazione. C'è da dire che l'unico suggerimento che c'è in questo gioco è questa vecia che abbiamo visto all'inizio, che ti legge le carte. Se tu trovi le carte nel capitolo, ti dà una sorta di mini suggerimento per insomma evitare di fare la cazzata per far perdere i personaggi. Però diciamo non è molto chiaro, noi a volte abbiamo seguito i suggerimenti e invece c'è morta male nativa. Ma abbiamo detto, cioè, ma noi abbiamo seguito questo suggerimento e c'è morta male uguale, perché probabilmente in quel caso invece ti diceva se fai così muori, perché quella tipa è un po' stronza, non è che ti dice per forza fai così per non morire, ti fa vedere questa muore così. Quindi sta a te poi capire se fare o meno quella situazione, però nel giro di tot secondi, cioè ad essere una cosa molto rapida poi. E quindi praticamente la cosa interessante è che, avendo perso alcuni personaggi, il nostro finale è stato differente da quello che poi sarebbe stato il vero finale. Quindi noi abbiamo giocato tipo un'ora in meno, perché essendo morti due personaggi che facevano quella parte finale, poi abbiamo visto che abbiamo giocato un'ora in meno proprio, quindi diciamo non è andata benissimo via The Quarry, però ci siamo divertiti molto. È il classico che ricorda un po' Venerdì 13, questa ambientazione, no? Stare al campeggio con il lago, e ci sono questi pischelli che hanno finito di lavorare lì al campeggio, devono tornare a casa, e però insomma non fanno in tempo perché la macchina non parte per un motivo che non so specificare, e quindi rimangono un'altra notte lì. Ovviamente in quella notte succedono vari casini, e quindi farli sopravvivere fino al giorno dopo è complicato, molto molto complicato. Quindi molto divertente secondo me, soprattutto da giocare in gruppo, perché così almeno insomma uno fa tante scelte insieme e diventa più divertente. Cioè secondo me questi sono giochi che da soli non rendono, anche se non l'ho mai giocata da sola, perché ho giocato sempre almeno con Gabriela questi giochi qui, anche perché mi prende l'ansia. E, però in gruppo sono veramente divertentissimi, cioè io ho aperto tanto tanto e spero ne usciranno altri, perché al momento mancano, li abbiamo recuperati tutti con questo quartetto diciamo, e quindi niente, devo aspettare il prossimo gioco. Poi interessante il fatto che comunque, almeno siccome questi giochi devi prendere decisioni molto rapidamente, si degnano anche di doppiarli in italiano, quindi non devi stare a perdere tempo a leggere eccetera, ascolti il dialogo e poi clicchi al volo la scelta, quindi almeno in questi continuano a doppiarli, sono contenta. Tu Simone l'hai giocato questo qua? Sì, l'ho giocato quando è uscito, perché sempre lì c'è Monkey che colpisce ancora, la scimmia sempre dietro l'angolo. Devo dire, sono d'accordo con te, cioè questi sono giochi che, cioè, puoi giocare anche da solo, però poi alla fine se giochi in compagnia ti diverti. In questo in particolare, che è la rete spirituale di Until Dawn, cioè nel senso che comunque allora Supermassive scagazza sti giochi a rotta de collo, perché io ho visto che nell'arco dei 4 anni hanno tirato fuori almeno 6 titoli e quindi hanno un livello di produzione veramente molto elevato. Fanno questi horror con dei cliché incredibili, cioè nel senso sono veramente la base del film horror, proprio gli stereotipi per eccellenza, l'horror quello di serie C, esatto, però funziona perché comunque stilisticamente sono ben realizzati. E poi perché, come dici tu, comunque se tu lo giochi in compagnia, secondo me funziona. È secondo me impossibile alla prima run finire con tutti i personaggi che vivono, insomma. E di solito, insomma, ne muoiono sempre due o tre, insomma, anche perché sì, quando giochi due o tre muoiono. Poi quando magari te lo rifai, sai quello che hai fatto, se vuoi proprio, sei un perfezionista, vuoi vedere il finale perfetto, secondo me lo devi rifare, insomma. E bello, bello, così mi è piaciuto anche a me. Diciamo, il pretesto narrativo che Deborah non va detto è legato a un detto che insomma mette in mezzo dei buoi, poi fate voi, insomma, mette in mezzo dei buoi. Non l'hai capita? No, cos'è che tira più di un carro di buoi? Ora sì, no, sai perché? Siccome loro dicono tutto il tempo ciò che non ti uccide ti fortifica, pensavo intendevi che il detto è ciò no, che no, non ti uccide. No, io parlavo di un detto più ancestrale, diciamo. Quindi ero rimasta un un attimo, quando è che c'è la cosa dei buoi, capito? Stavo proprio a ragionare. No? I buoi. Cioè, dicono sempre ciò che non ti uccide ti fortifica. Quando è che c'è quella cosa dei buoi? Te sto a più seriamente. Eh no, però è così, perché alla fine tutto succede per colpa dei buoi, insomma. Sì, alla fine è sempre gira tutto intorno a quello. Comunque, Inspi dice Gab Santuomo, è vero, Gabriel ha molta pazienza, anche perché, ripeto, noi comunque lo minacciamo di non avere la cena. Se muore qualcuno non mangi. Se sbagli un quick time event appiato a calci, capito? Cioè, questo... e Duskfall, sì, giocato su Game Pass appena l'hanno messo, ho giocato io a Gabri, quello lì. Sì, sì, bello pure quello. Mi è stato criticato per alcune cose, ma a me è piaciuto tanto. Secondo me quello è partito molto bene, verso il finale ma un po' deluso anche a Gabriel. Diciamo, parte bene, poi secondo me un po' si perde verso la fine. Però è stato comunque molto gradevole. Anche, sì, anche se anche ho visto quello. Che lì veramente la storia è molto interattiva, eh? Cioè, nel senso, lì tantissime cose cambiano a seconda di quello che succede. Perché io poi mi sono visto un gameplay su YouTube e ho visto che era molto diverso da quello che ho fatto io. Quindi, insomma, sai. Sì, ma anche a fine capitolo ti faceva vedere tutte le biforcazioni, no? Sì. A seconda delle scelte, lì erano veramente tante, sì. A me dopo Until Dawn i loro giochi successivi sono una delusione, perché sono diventati giochi con interazione zero, dice Mattia. Sì, questo lo vedo proprio adatto a una sorta di gioco da tavola insieme agli amici, esatto. Infatti noi con loro giochiamo ai giochi da tavola e a questi giochi qui, insomma. Sì, anche Resident Evil l'abbiamo giocato con loro, però tendenzialmente giochiamo soprattutto a questi giochi qua insieme. Questi sono fatti proprio per questo tipo di pubblico, eh? Cioè proprio è un tipo di interazione limitata, proprio perché è dedicata a chi vuole giocare a un prodotto televisivo, a un prodotto cinematografico, quindi ci sta che sia così. Sì, anche perché mia sorella, come ho detto altre volte, non è una videogiocatrice, nel senso lei gioca a qualche gioco, ma una volta ogni tanto, insomma, cioè non è come me fissata proprio con i videogiochi. E invece questi giochi qui proprio si appassiona, si diverte, partecipa, ma anzi mi dice sempre quando è che ce ne esce un altro, quando è che esce il prossimo. Quindi anche una persona magari che non è proprio videogiocatrice, videogiocatore, si diverte con questo tipo di gioco qui, insomma. Il mio finale perfetto è quando muoiono tutti. Inspi è famoso per far morire sempre tutti i personaggi, non è facile neanche quello, onestamente. Va bene, dai, andiamo all'ottavo gioco di Simone, vai. Sì, qui sono molto veloce, perché in realtà parlo di un gioco che non ho finito, però ne voglio parlare perché ha un valore storico importante, secondo me, perché stiamo parlando di di Final Fantasy XVI, che è il Final Fantasy che crea, diciamo, una rottura con il passato, in maniera molto radicale. Per due motivi fondamentali. Uno, perché è un dark fantasy molto oscuro. Scusa, non c'è Final Fantasy 16 qua su Steam, non è uscito. Aspetta che te lo cerco. No, vabbè, lo metto qua su YouTube, non ti preoccupa. Ok. Vai, scusami. Ma è il 16 poi. Non so se è il 16, può essere. È l'ultimo uscito il 16, no? Lo trovi? Giusto, no? Ok, sì, è l'ultimo, quello che... Ah, giusto, tu non vedi, perdonami. Vai, l'ho messo. Vabbè, intanto vi dico. Allora, per me c'è due motivi fondamentali. Intanto perché è veramente un dark fantasy molto scuro, con degli elementi un po', diciamo, segue un po' la traccia del Trono di Spade, in qualche maniera. Perché anche se secondo me questo accostamento che è stato fatto è un po' eccessivo, nel senso che non arriva ai livelli del Trono di Spade, però comunque c'è questa grossa oscurità, questa drammaticità molto più realistica, diciamo, sempre giapponese, no? Sempre le solite storie un po' Final Fantasy, però allo stesso tempo comunque più vissute, anche più carnalmente recitate, proprio ti dà proprio la sensazione, no, del dolore, della sofferenza. E poi ci sono anche gli elementi sessuali che in questo caso, insomma, cioè, si capisce che c'è una relazione sessuale fra due persone, piuttosto che quell'atteggiamento un po' nipponico tipico che quei due persone se piacciono ma a malapena si sfiorano, insomma, no? E poi perché secondo me c'è un valore storico veramente importante, il grande elemento di rottura. E che pur essendo un Final Fantasy, quindi un gioco immenso a livello di ore, di parlato e di contenuti è interamente doppiato in italiano, che secondo me questo è stato un atto coraggioso. Per la prima volta Square Enix fa questa scelta di doppiare in italiano un Final Fantasy, e tra l'altro un doppiaggio molto teatrale per certi versi, ma di grandissima qualità. Cioè, secondo me ci hanno speso veramente un sacco di soldi a fare questa cosa, e non so se lo rifaranno in futuro, perché non gli conviene, perché secondo me è costato una sfraccanza di soldi incredibile fare un lavoro del genere. Però mi auguro, così come diceva anche l'autore leggendo un'intervista, che sia un po' l'inizio di un certo tipo di intenzione da parte loro, perché dice comunque i fan italiani sono sempre stati molto presenti e attivi, è stata una sorta di omaggio, no, quasi a questo tipo di opera. Ma evidentemente è anche un gioco nel quale narrativamente credevano molto, perché veramente ci hanno investito tanto. La qualità, secondo me, tecnica e recitativa e anche del doppiaggio, secondo me è veramente di altissimo livello. Quindi io volevo segnalare questo gioco per questo motivo qua. Poi chiaramente il Final Fantasy di per sé molti l'hanno criticato, perché in realtà basta spingere un pulsante a ripetizione e fai e combatti. E non, allora, non essendo il mio genere, cioè non mi metto a fare questioni sul gameplay, sulla parte tecnica del gameplay. Però secondo me è un gioco che merita di essere sostenuto, anche perché anche acquistandolo comunque dai un segnale al fatto di continuare magari a fare i Final Fantasy in italiano, insomma. Calcolo neanche sapevo fosse doppiato in italiano, quindi, perché no, ho seguito praticamente nulla dell'uscita di questo nuovo Final Fantasy e non sapevo fosse doppiato in italiano, quindi lo scopro questa sera. Beh, guarda, io ti devo dire la verità, di per sé non ero interessato manco io, però poi sentendo anche persone che conosco, guarda che questo è diverso, giocalo perché questo ti piace, e allora gli ho dato prima un, l'ho provato, insomma, vabbè, prima l'ho provato e poi insomma lo devo finire, perché lo voglio finire, voglio andare avanti, solo che effetti è lungo, è un sacco di cavoli che io purtroppo oggi non devo trovare del tempo veramente. Però mi ha veramente impressionato questo tipo di approccio e questa scelta, che tecnicamente è ben fatta e soprattutto mi ha fatto proprio piacere, insomma. In un periodo in cui... Solo su console oppure anche PC? Allora, io l'ho giocato su console, però lo sai che forse è quello il problema? Sai che non lo trovavi? Perché è uscito solo sulla PlayStation? Perché tu non lo trovi? No, vabbè, ho messo il trailer su YouTube, perché okay. Su Steam non l'ho trovato. Ok, sì, grazie a un... Grazie, insomma, a Matteo, insomma, me lo so potuto giocare, perché sennò altrimenti non avrei potuto giocare. E comunque, devo dire, grazie, cioè nel senso, in un periodo in cui c'è stata questa controtendenza, invece, dove anche i giochi di una certa rilevanza iniziano, insomma, a non avere più magari il supporto in italiano, magari a volte tolgono il doppiaggio, mettono soltanto i testi, fino a che poi ovviamente alcuni stanno proprio a togliere anche i testi, insomma questo è un periodo abbastanza difficile, comprensibile, perché poi alla fine noi in Italia non compriamo giochi e quindi non ci possiamo lamentare, insomma, del fatto che questo succede. Però a me questo è, insomma. E beh, allora sarà da recuperare questo qui. Però Nico ci sta dicendo, infatti è uscito solo per PlayStation 5. Sì, per sì, ora. Sì, sì, infatti io l'ho detto, non avendocelo, ho dovuto ringraziare Matteo, insomma, che ce l'ha, e quindi si cattura lo strumento, si porta a casa e poi si restituisce. Ecco, ha un altro motivo per cui non l'ho finito, insomma. Senti, Nico dice anche Final Fantasy 16 spacciato per GDR, che non è, ho letto così, è così? Allora, cioè, vogliamo definire i Final Fantasy, secondo me non so più GDR, da a parte quelli online magari, che comunque non ho mai giocato, so GDR è Final Fantasy 10, non diciamo, sono più GDR, sì, diciamo che è un action, cioè è un action GDR, action, possiamo GDR, sì, GDR, il 10 che... è stato l'ultimo, no, con i combattimenti a turni, sì, sì, sì, no, ma anche il 12 era abbastanza ancora. Era un tipo di combattimento. Beh, il 12 però già era un combattimento in tempo reale. Insomma, sì, però era semi tempo reale. Diciamo che comunque era sempre tattico. Però sì, comunque non c'aveva la cosa del turno singolo. Però già fino al 12, secondo me, ancora c'è stavano, insomma. Poi dopo, sai, per me sono diventati tutti action, poi fondamentalmente hanno seguito un po' tutti quanti sta moda, un po' come il remake di Final Fantasy VII, che alla fine è uguale, cioè nel senso è come Kingdom Hearts, cioè la stessa cosa, il tipo dei combattimenti sono quelli fondamentalmente. È un peccato perché invece io adoro il combattimento strategico a turni. Sono d'accordo, però mi sa che siamo rimasti in due. In pochi, sì. A tutti piace l'azione. Esatto. Va bene, io non commento di Final Fantasy XVI perché, ripeto, ho seguito molto poco e perché questa sera ho saputo che era anche doppiato in italiano, quindi non posso commentare una cosa che obiettivamente non ho seguito assolutamente. Quindi andiamo al mio ottavo posto. Il mio ottavo posto praticamente è il primo gioco in classifica che io ho portato sul canale quest'anno. Gioco che mi ha stupito tantissimo, pagato una stronzata, veramente una stronzata. E mi ha colpito molto molto in positivo, ossia Cats and the Other Lives. Eccolo qua. Allora, questo gioco io l'ho pagato un euro. Dico proprio quanto ho pagato praticamente. Ah sì, questo mi era piaciuto. E praticamente noi avevamo provato la demo in live un sacco di tempo fa. E quindi quando ho visto che stava in euro, dico minchia, questo lo prendo, me l'ha piaciuto, insomma la demo mi aveva dato un'ottima impressione. E c'è da dire che questo l'ho portato in video sul canale, quindi non in live, ma giocato in video, e mi ha colpito estremamente in positivo. Cioè mi aspettavo che era carino, ma non mi aspettavo così interessante, oltre ad essere molto lungo. Cioè, sai, mi aspettavo insomma un gioco sulle 4 ore più o meno, non di più, e invece ho giocato 8 ore, quindi il doppio di quello che mi aspettavo. E soprattutto ho trovato molto interessante l'idea che noi siamo questo gatto arancione che insomma sta in questa magione di questi famiglia insomma economicamente che era di un certo livello, e però con tutte le loro problematiche si ritrovano tutti in questa magione perché il nonno, insomma il padre dei tre fratelli, muore, e quindi si ritrovano tutti insieme per il funerale. E praticamente con il gatto andiamo avanti e indietro per le stanze della magione e ascoltiamo le varie conversazioni di tutti i personaggi della famiglia. Ovviamente ognuno di loro ha le proprie problematiche, sia come famiglia sia come singolo. E soprattutto piano piano conosciamo tutto ciò che è successo nel passato, che poi ha causato tanti problemi in generale proprio alla famiglia. Quindi tramite il gatto veniamo a conoscenza di tutta la storia di questa famiglia, da quando praticamente questo nonno che è morto era giovane, come si è sviluppata poi la cosa, quando ha avuto i figli, con la moglie, quello che è successo e fino al giorno della morte, insomma. Piano piano con questo gatto riusciamo a capire quello che è successo perché, come potete vedere in queste immagini che mi sto mettendo adesso, il gatto vede dei ricordi del passato. Quindi praticamente questi sono dei ricordi del passato, quindi a seconda della stanza in cui stiamo, a seconda di quello che dicono gli personaggi, a seconda dell'oggetto che tocca il gatto, ci sono questa sorta di ricordi per capire meglio che cosa è successo nel passato e quindi comprendere perché nel presente si è arrivati a questa situazione. Quindi idea molto particolare, trama più profonda di quello che mi aspettassi, personaggi anche caratterizzati molto bene, anche se come vedete i personaggi non hanno neanche le pupille, cioè nel senso sono personaggi senza volto, però invece hanno una grandissima caratterizzazione. Quindi è molto interessante seguire le vicende di questa famiglia che ovviamente ha passato molti guai, insomma molte problematiche, quindi è bello, io questo lo consiglio. Bella anche la pixel art, onestamente. E quindi a tutti i fan delle avventure consiglio di recuperarlo. È solo in inglese, però un inglese molto fattibile, quindi anche sotto quel punto di vista della lingua non c'è problema. L'unica cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso è la presenza di alcuni minigiochi, che purtroppo ormai non so perché c'è la mania di mettere sti cazzo dei minigiochi che a me onestamente invece di aumentare il divertimento mi rovinano proprio il divertimento, perché li trovo inutili, forzati e spesso mi rompono il ritmo della storia, perché magari è un minigioco del cavolo che devi rifare più volte e ti spezza un po' tutta l'atmosfera che si era creata, perché comunque questo gioco c'ha una bella atmosfera anche. Quindi non capisco perché hanno dovuto mettere questi minigiochi, però al di fuori dei minigiochi il gioco è veramente molto molto bello. Te Simone lo conosci, ci hai giocato? No, non ci ho giocato, ma ho seguito i tuoi video e devo dire che sia originale, è carino, e poi loro tutta bella gente, insomma, di persone simpatiche. Sì, diciamo che la tipa con gli occhiali, questa qui, come si chiama? La zia Dawn, se non sbaglio, si chiamava, non ci sta mai nelle foto. Vabbè, c'era poco fa la zia. È il personaggio più simpatico, onestamente, perché è anche bella nerd, eccola qua, la zia Dawn. Questo secondo me è il personaggio più carino tra di loro. E gli altri hanno un po' di rodimento de culo, insomma. Sì, mi ricordo, per quello che mi ricordo, abbastanza egoisti, ognuno, insomma, con una propria visione anche un po' cinica, però se devo dire è originale sto gioco, il fatto dell'animale che comunque in qualche maniera attraversando le stanze scopri la narrazione, bello. Sì, praticamente il gatto ci racconta la storia, quindi è carino, carino, molto interessante, ma soprattutto perché poi capisci perché ad esempio a questa ieri ad esempio, cioè ci sono delle motivazioni perché poi loro sono diventati così, no? Per quello che è successo nel passato, quindi piano piano scopri perché questi personaggi stanno sempre con rodimento de culo praticamente. e quindi no, però mitica zia Dawn, la mia preferita assolutamente. Comunque la gatta Aspen, Simone, c'ha un'ottima memoria, ovviamente mi ero già scordata che si chiama Aspen la gatta, anche se c'è scritto anche qua, però mi sono scordata. Carlo dice bellissimo e geniale. Inspi dice pensavo che il gatto vedeva la gente morta. No, sono dei ricordi, sono una sorta di flashback, diciamo, vedi i ricordi. Ricordo ancora l'easter egg di Doom, quello è bellissimo, quello è stato veramente divertente. E è andato bene, insomma, questo gioco per essere molto indipendente ed è molto, insomma, questa grafica pixellosa, poco dettagliata, insomma, vedete, come vi dicevo, i visi, neanche gli occhi. Direi che è andato bene, quindi sono contenta perché è un gioco assolutamente indipendente, quindi mi ha fatto piacere. Va bene, passiamo al settimo posto di Simone. Allora, qui proprio narrativa fantascientifica, post apocalittico, drammatica, devastante. Parliamo di Deliver Us Mars, che è il seguito di Deliver Us the Moon, ovviamente. Insomma, incredibile, chi l'avrebbe mai detto? Non l'avrei mai pensato. Non l'avresti mai pensato. È connesso, diciamo, alla storia, perché c'è tutta una macro storia che non vi dico perché secondo me è bello da gustare, insomma, cioè nel senso che comunque se vi piace quel tipo di fantascienza, quel tipo di narrativa anche molto articolata, dove c'è comunque dietro tutta una serie di risvolti relativi alla sopravvivenza dell'umanità, sette cose che si organizzano in maniera diversa da quello che avrebbero dovuto, insomma tutta una serie di cose veramente belle. Il primo ha avuto un buon successo, anche se io non l'ho giocato, ma me lo sono un po' spippolato su YouTube. Invece il secondo, secondo me, è un grande passo avanti da un certo punto di vista, perché aggiunge, diciamo, tecnicamente fa un passo avanti rispetto al gioco precedente, che praticamente noi il personaggio praticamente non vediamo mai i personaggi, cioè vediamo solo il personaggio principale più ovviamente dei flashback registrati su tramite dei dispositivi e via dicendo. Quindi è come il gatto, vede i ricordi. Sì, sì, esatto, sì, però li rivede perché sono registrati. Il gatto non lo so da dove li vede, però. nel sesto senso. Esatto. Invece qui i personaggi, ci sono delle sequenze, so dei personaggi, so tutta una parte un po' più cinematografica, un po' alla Telltale, che si aggiunge a tutto il resto, che è un gioco di esplorazione praticamente, fondamentalmente. E di narrazione, quindi c'è tutta la narrativa, scorre a secondo delle cose che fai tu, quando le fai, come le fai, ci sono tutta una serie di enigmi ambientali anche qui, e porti avanti ovviamente la storia, e devo dire che questo aspetto della maggiore qualità produttiva si vede proprio perché la narrazione è ancora più articolata, ci sono dei flashback che partono dal passato, vediamo anche delle sequenze, insomma, della protagonista con la sua famiglia. Non dico altro perché è importante anche sapere chi è la famiglia della protagonista nell'insieme di tutta quanta la storia, e soprattutto per quanto riguarda sia il precedente capitolo che questo qui, che insomma poi c'ha un risvolto veramente interessante. E l'unica cosa che critico di questo gioco è la stessa cosa che critico in The Planet of Lana, perché io lo capisco che è un videogioco, quindi ci deve essere una parte ludica, non voglio passare per quello che non vuole fare un cazzo all'interno del videogioco, però io penso che ogni enigma deve essere contestualizzato a livello ambientale, cioè non può essere che, allora, c'è questo tipo di enigmi, tu hai una specie di dispositivo che spara delle microonde su un altro dispositivo a una certa distanza e quel dispositivo si attiva una volta, la seconda volta diventano due, diventano tre, quattro, cinque, fino a che a un certo punto tu all'interno della base spaziale devi aprire delle porte, passare in un tunnel, fare tutta una serie di cose per aprire una sottoporta nascosta perché c'è lì il dispositivo che devi sparare le microonde in un altro punto. Cioè non è realistico, cioè io non penso che uno costruisce una base spaziale per mettere un enigma dentro, capisci? Cioè, tipo come quando dici le magioni che è tutto chiuso con tutto chiuso a chiave. Paso, esatto. Vado dentro la casa del poro nonno scomparso, la casa abbandonata, entro e solo per aprire c'è un enigma, c'è un puzzle. Cioè, no, io non è che non lo sopporto, perché poi lo fai, cioè non è che non lo fai, non è una cosa... A parte, allora c'è... Cioè, questo gioco secondo me il problema è che è stato pensato anche per il VR, perché ci sono degli enigmi che tu devi, anzi degli enigmi, tu per sbloccare ovviamente le memorie, quindi le registrazioni di quelli degli eventi che sono successi, c'hai praticamente la riproduzione di un ologramma del robottino che ti accompagna, che è una palla praticamente. E tu c'hai dei... Vabbè, vedi, alla Planet of Lana avevi il gatto che era una palla. Esatto, qui c'è una palla. Qui c'è una palla, quindi è tutta una palla. Tu praticamente devi far incastrare delle ali gialle praticamente all'interno della figura dell'ologramma. Però per farlo ti devi spostare a destra, a sinistra, sopra e sotto. Cioè tu sta cosa la devi fare con il robottino praticamente volando. Quindi praticamente devi abbassare l'inquadratura, devi abbassare la visuale, devi fare delle cose assolutamente innaturali per uno che gioca con mouse e tastiera. Quindi ho pensato che forse quel tipo di enigmi fossero pensati per chi gioca col VR. Ecco, quella cosa è fatta male. Cioè non è che non mi piace, è proprio fatta male, perché a volte perdi tempo per cercare di incastrare queste due alette gialle all'interno della figura dell'ologramma, e veramente a volte ce lo fai sbloccando senza neanche sta guardando quello che stai facendo, perché lo devi fare puntando verso là. Cioè è una cosa assurda, inaccettabile secondo me. Però il gioco è figo, devo dire, il gioco è figo visivamente, è bello, bella l'atmosfera, bello proprio quella sensazione anche de precarietà, ecco, dell'umanità in una fase dell'istinzione, insomma, quasi. Bello, mi è piaciuto, secondo me merita veramente tanto, se ve va poi insomma di aprire cunicoli e porte segrete per sparare una cosa che serve per attivare un'altra cosa che dovrebbe essere a portata di mano perché serve per accenderlo, insomma. Quindi, cioè, comunque. Senti, ma quanto è lungo il gioco, per curiosità? Non tantissimo, sai che mi hai colto un po'. Però ecco, secondo me faccio domande scomode oggi. Fai domande scomode alle quali non so risponderti, ma secondo me 4-5 ore il gioco lo finisci. Senti, però posso dire che è inquietante che la ragazzina, quando era ragazzina, ha la stessa faccia di quando è adulta. Vabbè, allora allora ti dico. Ti giuro, tu mentre parlavi vedevo la ragazzina che sì, aveva la stessa faccia. No, è vero. Adulta, è vero. Allora, il problema è questo: è che questo gioco rispetto al primo c'ha una qualità produttiva indiscutibilmente superiore. Però chiaramente stiamo sempre a parlare di un prodotto veramente indipendente, quindi diciamo che sempre le risorse sono quelle che so. Ma in realtà c'era anche un glitch terrificante, che quando questi parlano, tipo alla Telltale, no? Visto spalla, controcampo, campo, controcampo, zoom, quando c'era un cambio di inquadratura, questa i capelli facevano flip, cioè io impazzivo i capelli per un secondo e poi si riposi, come se Unreal Engine posizionasse i capelli ogni volta che c'era un'inquadratura, no? Poi l'hanno risolto un pochino sta cosa e va bene, però ma insomma forse a questo punto era meglio che i capelli gli coprivano la faccia da ragazzina. Ragazzi No, questo succede anche poi dopo, quando diventa anche da adulta, perché per esempio nel primo hanno risolto il problema, c'è un tizio col casco e non soleva mai sto casco, quindi cioè, dice risolviamo i capelli così col sì, casco. No, ma neanche pure la faccia, perché noi non lo vediamo il protagonista. Ah, è tipo Master Chief. Esatto, noi nel protagonista vediamo il viso in un poster attaccato nel secondo, perché sennò non lo sappiamo che faccia c'ha il primo. Ah, Isaac qualcosa, c'era la foto, sto Isaac poco fa nel trailer, no? Sbagliamo. No, Isaac no, non è lui il protagonista. Cioè, Isaac è un personaggio importante sia nel primo che nel secondo, però vabbè. Isaac sta in Dead Space, quindi niente. Comunque per lo più positiva, infatti non è alta, insomma, la votazione qua su Steam. Beh, è alta ma non eccellente, insomma, nel senso, secondo me, però merita, secondo me merita, diciamo, bene ma non benissimo. Brava, esatto, bene ma non benissimo. Comunque l'hanno regalato anche su Epic un paio di settimane fa più o meno, ah, se quindi se ce l'avete giocatelo, ragazzi. Esatto, se l'avete rimediato, anche se questo è un tipo di gioco che a me ovviamente non piace, perché ha roba spaziale qua, poi Gem Steady, ti arrampichi lì e poi vai lì e prendi quello per sparare a quello, sì. No, quindi no, diciamo, no, c'è anche per me, comunque è roba gratis, non si rifiuta mai, e quindi l'ho aggiunto su Epic. C'è anche, ti devo dire la verità, un aspetto importante che c'è anche sul primo, quello che quando tu devi decollare col razzo lo devi far partire tu il razzo, quindi tutti i comandi che devi ora, così detto così, dico no, è una follia, cioè, ma chi... Però è una cazzata, è tutto guidato poi fondamentalmente. No, perché io sennò c'era il tasto per auto esplodere. Per distruggere il pianeta. Cioè. No, però è figa come cosa, perché ti dà proprio la sensazione, capito, dell'attiva lì, poi accelera, poi è distacco del modulo. Cioè, nel senso, è figa come cosa, però chiaramente è più guidata di quanto possa sembrare. Vabbè, ma per forza, perché sennò io penso rimanevo lì, non mi muovevo. Sì, sennò è il simulatore spaziale, cioè. Comunque, allora leggiamo. A Deb non piace, mi sa, esatto. Ormai mi conoscete, sapete che questi inspi-like, come li chiamo io, perché tutta roba spaziale, o i city builder, quelli seri, sono tutti inspi-like, quindi questa roba spaziale è molto inspi-like, quindi no, non fa per me. Inspi dice: lei che si arrampica su ghiaccio stile Tomb Raider, l'ho pensato anch'io, infatti, mentre lo vedevamo. Assolfo dice: giocarlo con mouse e tastiera è complicato, almeno per me, quindi vai di joystick a questo punto. E piccoli team si perdona, gli dice Nico. Beh, sì, sì. Errori. Sì, tutto sommato, sì. Cioè, voglio dire, se l'avesse fatto Ubisoft sarebbe stato peggio. Ah, beh, sì. Va bene, va bene. Andiamo al mio settimo posto. Altro gioco portato sul canale quest'anno. Altro gioco che mi ha stupito tantissimo. Non gli davo 2 lire. Ma veramente non gli davo 2 lire. Invece mi ha stupito proprio un botto. Penso che è l'avventura grafica tra le più belle che ho giocato quest'anno. Proprio come punta e clicca, ossia Inspector Waffles, anzi, che poi è bellissimo, ogni volta registravo il video, perché pure questo l'ho portato in video, ogni volta dicevo ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Detective Waffles, dico no, cazzo, è Inspector, e riregistra, capito? Ogni volta lo chiamavo Detective Waffles, quindi per me questo gioco è Detective Waffles, non è Inspector Waffles. Comunque questo qui sempre, insomma, questi pixel abbastanza grandi, quindi non troppo dettagliati, mentre quello di prima secondo me era molto bello come ha fatto. Questo c'ha una pixel un po' così, insomma, niente di che, però c'ha queste scene disegnate di intermezzo che sono stupende, queste fumette qua sono proprio belle. La cosa che mi ha stupito in positivo è il fatto che è veramente divertente questo gioco, mi ha divertito tantissimo, quindi una di quelle avventure punta e clicca, commedia, tendente alla commedia, che mi ha fatto ridere, cioè mi ha fatto sorridere tutto il tempo, proprio carino, divertente, che è un grande rischio, come ogni volta dico, quando un'avventura punta e clicca tende al comico, alla commedia, per me è sempre un ni, perché se è tendente al deponia, che a me non mi fa ride, mi dà fastidio, e quindi non riesco proprio a giocarla, cioè quello che per me è quasi forzato, che te deve far ride ma non mi fa ride, e quindi non riesco poi a giocarli. E invece questo qui mi ha fatto un sacco di divertire, cioè mi ha divertito tantissimo, è durato anche questo 8 ore, quindi diciamo giusta lunghezza secondo me per un'avventura grafica, molti personaggi, una storia non banale, onestamente. Ci sono vari intrecci, quindi ti incuriosisce tantissimo arrivare alla fine per vedere chi è stato obiettivamente, perché, com'è andata la cosa. Quindi molto molto carino, coinvolgente. Si visitano anche varie location, ti affezioni ai personaggi, cosa che per me è molto importante, vuol dire che i personaggi sono caratterizzati bene, il gioco è fatto bene. E quindi questo, ragazzi, ve lo consiglio assolutamente. Anche questo qui l'avevo trovato a ottimo prezzo. E grande avventura, uscita nel 2021, recuperata quest'anno, ma perché recuperata? Perché stava a buon prezzo e dico vabbè, gli do un'opportunità. E quindi invece è stata veramente una sorpresa, questa è stata una delle sorprese dell'anno a mio avviso, per me. Quindi molto molto contenta anche di averlo portato sul canale, perché merita. Anche questo solo in inglese, ma l'inglese è sempre molto fattibile, anche questo qui di Inspector Waffles. E questo è andato meno bene del gioco di prima, di Cats and the Other Leaves, cioè poche recensioni purtroppo, però chi l'ha giocato l'ha apprezzato, quindi è ottimo. Vi consiglio di recuperarlo, insomma, se siete amanti delle avventure punta e clicca, perché è veramente molto divertente, gradevole. Ripeto, si lascia giocare e soprattutto incuriosisce fino alla fine, quindi puoi andare avanti per vedere come va la storia. Non banale, ripeto, quindi molto molto carino. Te, Simone, questo conosci? Nada, absolutely nada. Però mi recupero i tuoi video, questo sicuramente. Sì, guarda, onestamente io questo te lo consiglio proprio anche di, insomma, magari dai un'occhiata al video per vedere un po' se può fare per te, e poi ti consiglio proprio di giocarlo perché è divertente. Cioè, nel senso, per il mio punto di vista è un tipo di commedia che mi ha fatto sorridere tutto il tempo. Ci sono dei giochi, tanti giochi di parole, che anche se sono in inglese comunque si capiscono senza problemi, che sono quel gioco di parole un po' tendente allo stupido, però non lo stupido fastidioso, non lo stupido quello che ti fa cadere le palle, ma lo stupido quello che obiettivamente te fa ridere, cioè è divertente come battuta. Quindi carino, ci sono, ripeto, poi un sacco di anche di persone da con cui interagire, vari oggetti da raccogliere, quindi c'è da fare in questo gioco, molto molto bello. Allora, Simone dice: gran bel gioco questo. Mattia dice: speriamo sia bello almeno la metà del Darkside Detective. Come sai, però a me Darkside Detective non mi ha fatto impazzire, perché è il problema che ho detto poco fa. A me Darkside Detective non mi ha fatto ridere. Cioè, l'ho trovato molto molto forzato, non mi ha fatto ridere. Io in quello invece mi aspettavo tanto, quindi sono rimasta delusa. E l'ho portato tutto sul canale, ho fatto un po' fatica a finirlo onestamente, perché ripeto, è quel tipo di commedia che a me non fa ridere e quando è così faccio fatica. È uscito anche il secondo, infatti non l'ho neanche comprato ancora, perché non avendomi fatto impazzire il primo ho detto boh, il secondo non so se lo giocherò. C'avevi tante aspettative, magari ha fatto ridere Darkside Detective, l'ha apprezzato, e può darsi che Inspector Waffles invece non faccia per te, dato che invece a me ha fatto ridere. Può darsi che abbiamo un tipo di apprezzamento di commedia un po' differente, però io ti consiglio comunque di dargli un'occhiata, perché magari invece poi diverte anche te. Comunque su Darkside Detective magari, cioè, nel senso, l'aspettativa era alta perché se ne era parlato tanto, e quindi alla fine quando poi un prodotto così indie se ne parla tanto, viene anche un po' spinto, diciamo, a un certo punto di vista, poi se non mantiene le promesse è una delusione, insomma. Sì, io sono rimasta molto delusa, onestamente. A me non mi è piaciuto per niente. Giochi che ho portato sul canale Darkside Detective e sono rimasta abbastanza delusa. Invece, ripeto, a questo non gli devo durire, invece mi ha sorpreso in maniera assurda. Quindi sicuramente anche questo fa la differenza, no? Perché di là mi aspettavo tanto e invece ho ricevuto poco. Qua non mi aspettavo niente, invece mi hai dato tanto, quindi l'ho apprezzato veramente tanto anche per questo, probabilmente. Adorabili giochi però di sto gioco, i nomi di certi animali, il momento Pavlov è stato molto divertente, ho riso tanto al momento Pavlov. Sì, molto, anzi mi sbilancio, sono due capolavori. A Mattia è piaciuto proprio tanto la Dark Side Detective, sì, me lo ricordavo. Ma anche il secondo hai giocato, Mattia, di Dark Side Detective? Grazie per averci seguito, per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte! Benissimo, carissimi amici, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Vi ricordo di andare su YouTube, cercare il canale di Pixel Deb e iscrivervi, attivare la campanella, guardare i video, condividerli, ma soprattutto mettere like, commentare e partecipare al suo progetto. Ciao e al prossimo episodio.